sogni e della vita. Senti, ora come ora è dura farla finita. E ora come ora è dura farla finita. E gli orizzonti sono una partita che se vinci, pensieri tranci e mollezze dei pianti si fanno presenti. La nostra non è storia infinita, è calamità per gli altri. E gli sguardi quel la finestra.